cosa c'hai avete per me. Le tiana già busta, mi mordu zonati, slushai avete per me. Touch of survivor's day, better, better, per me. Na peres noi in Moskvi, idu parkour.